Radio 24 Reportage. Il gigante ferito. New York si scopre fragile. Di Riccardo Barlam. Le sirene delle ambulanze a New York ormai non suonano neanche più, per quante sono le chiamate. Dall'8 marzo la città è in lockdown, chiusi tutti i negozi, le scuole, i musei, gli uffici, le strade semivuote. Il governatore Andrew Cuomo ha prorogato fino al 15 maggio la chiusura di tutte le attività economiche e l'obbligo di restare a casa. Quando si esce è obbligatoria la mascherina. Chi viola le regole può essere multato fino a $1,000. New York è diventata l'epicentro mondiale della pandemia del coronavirus per numero di casi confermati e purtroppo numero di morti. 9 milioni di persone che vivono in un lembo di terra, la città verticale, la città che non dorme mai, simbolo della internazionalità, dell'energia creativa e del mix di culture e di lingue, un concentrato del mondo racchiuso in pochi chilometri quadrati, dove nei suoi 5 boroughs, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, camminando da un isolato all'altro, nel raggio di poche centinaia di metri, si ha la sensazione di stare a Palermo e poi di passare a Calcutta, di passeggiare nel centro di Gerusalemme o di Mosca o nei mercati di strada a Shanghai. Oggi la Grande Mela è diventata una città spettrale, svuotata dal suo traffico solitamente infernale e dai marciapiedi pieni di gente a qualunque ora. Si è spenta sotto la scure del Covid-19 che qui ha colpito più forte che ovunque. Ora è quasi tutto chiuso. 27.000 ristoranti, 16.000 bar, 25.000 negozi hanno abbassato la sare cinesca a tempo indeterminato. La nuova grande depressione si vede già. La Fed, la banca centrale americana, prevede un calo del PIL del 50% nel trimestre e una disoccupazione al 30%, 5 volte di più dei tempi della crisi finanziaria del 2008. A New York, città chiusa, sarà molto peggio. Alessandro Pagano è un americano di origini italiane. È arrivato a New York con la sua famiglia emigrata dal Cilento quando aveva 10 anni. Oggi ne ha 60 e conosce Manhattan come le sue tasche. Ha un'azienda che esporta vini italiani di piccoli produttori e ogni giorno percorre l'isola in lungo e in largo per seguire i suoi clienti, che sono le enoteche, i bar e i tanti ristoranti della città. Allora, i danni dell'economia saranno molto peggio e sono già peggio di quelli del 11 settembre, perché a questo momento abbiamo tutto chiuso a New York. Parlavo proprio stamattina con un ristoratore che è proprietario di 3 ristoranti e non ha manco la minima idea di come può riaprire i ristoranti. L'industria del turismo è duramente colpita. Ogni anno a New York arrivano oltre 40 milioni di persone per vacanze o per turismo di affari. I 700 alberghi della città sono semivuoti. Gran parte dei lavoratori sono a casa, per ora in congedo a tempo indeterminato, che per molti si trasformerà in licenziamento. Molti temono che la recessione possa far ripiombare il paese nella crisi di fine anni 70, quella raccontata dal film Joker, con i fuochi per strada, i furti e le violenze, timori alimentati dal fatto che per evitare la diffusione del virus nelle carceri sovraffollate fanno uscire i detenuti con reati minori. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha già deciso il rilascio di 300 carcerati. La gente ha paura e si rifornisce di proiettili e pistole, oltre che di casse di birra e cartoni di vino. MTA, la società che gestisce i trasporti pubblici di New York, perde milioni di dollari alla settimana a causa del coronavirus. I passeggeri della metropolitana in pochi giorni sono crollati del 90%. La società rischia di fallire quando finirà la liquidità e ha già chiesto al governo federale un salvataggio pubblico da 4 miliardi. La Subway di notte si trasforma nella città degli homeless, che dormono nelle stazioni vuote o nei vagoni senza viaggiatori. I senza tetto sono 63.000 secondo i conteggi ufficiali. Molti si rifugiano nella metropolitana, preferita ai dormitori per i poveri, gli shelter comunali spesso troppo affollati. Nella città blindata non possono più accedere neanche ai bagni, con bar e ristoranti chiusi, così come sono chiusi i bagni pubblici. Il sindaco De Blasio ha requisito 3.500 camere d'albergo per i senza tetto. I reati sono in calo, ma si teme un aumento dei furti con l'aumento della povertà. Jimmy Rodriguez insegna in una scuola media del Bronx, una di quelle con alta concentrazione di afroamericani, ragazzi che con le scuole chiuse, senza la mensa, rischiano di non avere di che mangiare. I don't remember the exact numbers as to how many students are in the New York City Department of Education system. Non ricordo con esattezza quanti siano gli studenti a New York secondo il Dipartimento dell'Educazione. Se non sbaglio sono 1.100.000. Di questi circa 200.000 studenti non hanno un device o un servizio internet a casa. Il Dipartimento dell'Educazione sta lavorando senza sosta per far sì che ogni studente abbia a disposizione un dispositivo elettronico o un collegamento alla rete. Sta cercando di provvedere a queste carenze, ma ci vuole tempo. Ancora, quello che viene fuori anche dalla scuola è che le persone più povere sono quelle che soffrono di più. The poorer people, those are the ones are suffering the most. Gli afroamericani, gli ispanici e i nativi americani, le popolazioni più povere con alti tassi di obesità e di diabete per il junk food a buon mercato americano, quelle con meno difese immunitarie, rappresentano la fascia della popolazione più colpita dalla falce del virus. Le persone che si ammalano sono quelle del Bronx, del Queens e di Brooklyn, che ogni giorno si muovono con la metropolitana per raggiungere Manhattan, che sono il motore dell'economia della città, tutti i lavoratori con i salari bassi, i barellieri, i trasportatori, gli infermieri, i magazzinieri, gli operai delle società di pulizie, i commessi dei supermercati e i rider che consegnano il cibo e i pacchi nelle case degli americani chiusi in casa. Something I noticed today, and you can maybe Google this. Una cosa che ho appena scoperto, potete anche trovarla su Google, è che attraverso il codice postale di New York si può sapere dove si sono verificati più casi di coronavirus e anche più morti. Il punto è che i quartieri dove c'è maggiore povertà sono quelli in cui ci sono più casi. Il sindaco Bill de Blasio vuole spendere 10 milioni di dollari per aiutare queste comunità. Una delle cose che ha detto è che in queste comunità più povere ci sono tanti immigrati che conoscono poco l'inglese e non hanno informazioni sull'epidemia nella loro lingua. Quindi, come prima cosa, queste persone non ricevono le informazioni sui giusti comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus, come tutti gli altri. Secondo, molte di queste persone sono sulla soglia della povertà e sono obbligate ad andare a lavorare. Lavorano nei servizi essenziali, nei supermercati, nei piccoli negozi di alimentari che sono ovunque in questa città e sono molto più esposte rispetto agli altri. Quello che viene fuori è che le persone più povere sono quelle che stanno soffrendo di più. The poorest people are the ones that suffer the most. Gli ospedali nel Queens, Brooklyn e del Bronx sono presi d'assalto dalle persone ammalate. I posti letto non ci sono per tutti. Il personale sanitario è sotto pressione ed è insufficiente a fronteggiare l'emergenza. Here I know that every hospital they have. Ogni ospedale ha due o tre camion parcheggiati nel cortile. Sono certo che li avrete visti in TV, che con le sponde idrauliche caricano i morti dentro questi grandi semirimorchi frigoriferi. Emily Felix è un'infermiera specializzata, si è ammalata di coronavirus, ora è guarita, il tampone è negativo, ha sviluppato gli anticorpi ed è tornata subito in prima linea a lavorare nel reparto di terapia intensiva in ospedale. Yeah, it's terrible. I work in the ICU in the Veterans Hospital here in the Bronx. È terribile. Io lavoro nel centro di terapia intensiva all'ospedale dei veterani nel Bronx. Abbiamo 20 letti nel reparto e i 20 letti sono sempre occupati. Ognuno è attaccato a un respiratore. I nostri pazienti sono più vecchi rispetto a quelli degli altri ospedali perché la maggior parte dei veterani di guerra sono anziani. Tra i ricoverati c'è anche qualche giovane, ma di solito nel nostro ospedale noi serviamo la popolazione più anziana dei veterani. Ora si sta cercando di aprire un'altra unità di terapia intensiva, un reparto dedicato solo al coronavirus, così da avere più posti letto per i pazienti che arrivano e non trovano posto. Ogni giorno è una lotta per coprire i turni. Non abbiamo abbastanza personale, c'è tanto da fare, i medici, gli infermieri sono sempre occupati. È una lotta. Solo quando purtroppo un paziente muore, e succede spesso, si libera un posto che viene subito occupato, a eccezione di quanto è accaduto oggi, che siamo riusciti a trasferire un paziente che stava meglio in reparto, ma si trattava di un giovane di 39 anni. Le nostre protezioni all'inizio non erano adeguate. Io penso che quando tutto questo è cominciato molti amministratori non sapevano bene come muoversi. Solo dalla metà di marzo hanno iniziato a capire che tutte le persone dovevano indossare le mascherine. All'inizio a nessuno venivano fornite le giuste protezioni. Adesso, in termini di protezione, devo dire che ne abbiamo abbastanza. Ogni giorno veniamo riforniti di quello che ci manca. Ma fino alla settimana scorsa, in terapia intensiva, non tutti gli infermieri avevano le giuste protezioni che ci sarebbero spettate. Ci sono sempre ricoveri, in continuazione. La terapia intensiva è piena. Il pronto soccorso ogni giorno ci chiama per cercare di mandare nuovi pazienti. Non ho ancora visto un calo. Dalla seconda settimana di marzo, da quando l'emergenza è iniziata, siamo al limite. Non è facile. Il lavoro è pesante, molto pesante. Ogni giorno ci sono almeno 2 o 3 persone che muoiono. Per dire, ho lavorato ieri e abbiamo avuto 2 persone che sono morte. Gli altri giorni ne sono morte 3. È dura, durissima. E io parlo solo del mio reparto, che ha 20 posti letto. All'inizio, per la mancanza di informazioni e anche perché non si sapeva bene come gestire la malattia, molta gente tra il personale sanitario si è ammalata. Da un mese lottiamo con questo virus e solo la settimana scorsa i medici della terapia intensiva hanno fornito a tutta la squadra maschere di protezione e respiratori speciali per proteggere noi e i pazienti. C'è stato un ritardo nella comprensione su come affrontare questo virus e su come proteggere ognuno nel modo migliore. Alle 7 di sera a Brooklyn, nel Queens, nel Bronx, dalle finestre da qualche giorno parte un applauso spontaneo per ringraziare i medici, gli infermieri e tutte le persone che sono in prima linea nella battaglia con il coronavirus. New York, dopo l'11 settembre e dopo la crisi finanziaria, ce la farà anche questa volta a rialzarsi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.